Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica, la rassegna stampa di quello che si può trovare sui settimanali italiani, non solo italiani, come sempre il sabato e la domenica su Radio 24. Allora, volevo cominciare con qualcosa di un po' insolito e parlarvi quindi di una particolare guerra che le autorità di un paese stanno conducendo in questo periodo. Si tratta della campagna, di una campagna moralizzatrice che tende a ridurre l'abuso del gioco del biliardo. Qual è il paese che ha questo problema davvero inatteso? È la Tanzania. Lo leggo da Il, che è il magazine, come sapete, il mensile del Sole 24 Ore, da ieri in vendita con il nostro quotidiano. Stecca proibita è il titolo di questa corrispondenza di Marco Trovato da Dar es Salaam, che ci spiega come in Tanzania le autorità siano alle prese con una singolare guerra, quella contro il biliardo. Perché? Perché il paese sembra davvero contagiato dalla febbre per i tavoli verdi. Cos'è successo? Spiega Trovato: dal cuore delle metropoli al più piccolo isolato dei villaggi, in Tanzania non c'è posto dove non si trovi un tavolo da biliardo. Neppure i campi da calcio sono tanto diffusi e affollati. La passione per la stecca, importata dai coloni britannici ma rimasta a lungo confinata in ambienti elitari, è esplosa nel 94. Perché? Perché un'azienda di alcolici, la South African Brewers Limited, ha cominciato a finanziare la diffusione di migliaia di tavoli verdi. Il suo obiettivo non era quello di diffondere il gioco del biliardo, naturalmente, ma quello di incentivare il consumo degli alcolici, che però, insomma, diciamo, accanto al biliardo possono avere un loro posto. In breve tempo però quello che è successo è che il gioco è diventato, grazie alla diffusione di tavoli, uno sport nazionale e un business. Ci sono stati 10.000 rettangoli da gioco importati da India e Cina, 25.000 stecche vendute, 5 milioni di appassionati. Con il tempo però la febbre del biliardo ha assunto i connotati di una vera e propria malattia sociale, focolaio anche, ohimè, di ozio e di delinquenza, tanto che nel 2006 la polizia ha annunciato la proibizione della pratica del biliardo durante l'orario lavorativo, scatenando plateali proteste. Quindi si suppone che la passione per il biliardo fosse così radicata anche da distrarre da altre occupazioni come quella appunto del lavoro. Questa campagna naturalmente ha prodotto dei contraccolpi sull'industria, molte sale hanno chiuso e in 3 anni poi è successo che 10.000 persone legate appunto a questo indotto hanno perso il lavoro. Sono numeri abbastanza importanti, ricorda Trovato, perché si parla di un paese, appunto la Tanzania, dove la disoccupazione giovanile sta al 40%. E benché al momento i club più esclusivi di Dar es Salaam vietino ai loro soci di avvicinarsi ai tavoli prima dell'orario consentito per legge, in realtà basta allontanarsi un po' dal centro cittadino per scovare innumerevoli locali da gioco affollati a ogni ora del giorno. E il direttore del Gaming Board della Tanzania dice che ufficialmente vengono censiti solo 3.000 tavoli verdi, ma in realtà sono molti di più quelli presenti in tutto il paese. Per intanto però un risultato positivo c'è: gli atleti della nazionale tanzaniana si sono qualificati per la prima volta ai campionati mondiali di pool che quest'estate si terranno in Francia. Per i fan del biliardo non poteva esserci migliore rivincita. Questa è la conclusione dell'articolo di Marco Trovato su questa guerra al biliardo dichiarata dalle autorità della Tanzania. In realtà sono partito da questa indicazione di guerra ai biliardi che ho trovato appunto su Il, sul magazine del Sole 24 Ore, da ieri in edicola, ma la copertina di Il e diverse delle sue pagine si occupano di un tema diciamo molto serio, molto importante, cioè quello della etica smarrita, in qualche modo etica smarrita che riguarda l'Italia, non altri paesi, ohimè. Signori, si cambia il titolo che trovate in copertina: sconfiggiamo insieme il degrado morale. La copertina annuncia 24 proposte per far tornare a splendere in Italia il sole dell'etica. È interessante notare come proprio nelle pagine iniziali, prima ancora quindi della serie dei servizi dedicati proprio al recupero etico, il proponga una classifica curiosa e sicuramente discutibilissima sulla corruzione percepita. Discutibilissima intendo nei numeri, nei risultati. Che cosa dice questa classifica? Allora, secondo un'organizzazione che si chiama Transparency International, che si è basata su sondaggi d'opinione, valutazioni di esperti, le persone sono in grado di valutare quant'è la corruzione, il livello di corruzione che percepiscono nel loro paese. E la classifica quindi è stata elaborata come segue: il paese dove c'è poca corruzione prendeva un voto che si avvicinava al 10, dove invece la corruzione percepita era molto alta, il voto tendeva allo 0, cioè tendeva a scendere. I paesi che si sono classificati più in basso hanno preso 3 punti, e ci sono tra l'altro la Repubblica Dominicana, la Giamaica, il Madagascar, il Senegal, lo Zambia. E l'Italia però non è stata molto distante da questi 3 punti, perché la classifica appunto ci assegna 4,3 alla pari con l'Arabia Saudita, dietro a Cuba e alla Turchia, dietro ancora alla Malesia, alla Namibia, alla Slovacchia, al Sudafrica e ad altri paesi ancora. Quindi effettivamente la corruzione, il livello di corruzione percepito da noi in Italia, ripeto, non significa poi una reale diffusione di illegalità, ma quella percezione che gli stessi cittadini hanno del livello di corruzione del paese è decisamente alto, appunto abbiamo preso 4,3. Tanto per completarvi l'informazione, ma poi trovate tutto il dettaglio naturalmente su il... Sappiate che il paese dove meno si avverte il problema della corruzione sarebbe la Nuova Zelanda, è secondo la classifica di Transparency International. La Nuova Zelanda con 9,5 di punteggio, il massimo era 10, a 9,3 si classifica la Danimarca e poi a 9,2, quindi veramente a pochissimo, Singapore e la Svezia. La Svizzera è classificata al quinto posto, quarta posizione, quinto posto perché al terzo sono in due, con un 9. Secco 9,0. Questa è la classifica della corruzione percepita, che appunto non ci vede in una posizione molto lusinghiera. E allora, per concludere questa segnalazione dedicata al magazine del Sole 24 Ore, due parole sul lavoro al quale poi è stata dedicata la copertina del mensile del Sole 24 Ore. Storia di copertina, vi dicevo, l'etica smarrita, signori si cambia, le proposte per combattere il degrado morale, il senso di tutto il lavoro svolto da IL è appunto individuare alcuni settori in cui si possono fare delle azioni positive in qualche modo per un recupero etico, un recupero di moralità, che non riguarda magari, anzi non riguarda affatto a scorrere le pagine di IL solo e soltanto le questioni legate alla politica, ma in realtà sembra pervadere molti aspetti della nostra vita di cittadini. Ad esempio Walter Mariotti, che è poi il responsabile di IL, apre queste pagine con un invito ad essere meno cinici, dice: accidenti al cinismo. In realtà anche l'indignazione sollevata dalle intercettazioni, spiega Mariotti, è una indignazione di tipo virtuale, digitale, strumentale, ma non muove poi nulla. Perché? Perché probabilmente abbiamo una soglia oramai di accettazione delle violazioni all'etica che è diventata troppo bassa. Ad esempio lui dice: basta molto meno per avere un degrado in qualche modo del paese, non fare la fila alle poste, accettare il perbenismo dei vicini, riservarsi i diritti e pretendere i doveri, dimenticare le piccole cose ma essere disposti a tutto. Queste sono poi le indicazioni che Mariotti mette come introduzione. Tra le proposte che poi trovate nelle pagine, l'insegnamento di etica nelle scuole, perché no, la questione generazionale, cioè il problema che il nostro paese è un paese che sta fatalmente invecchiando, con un ricambio generazionale ridotto, e quindi anche in politica ma non solo, il rispetto, perché no, del codice della strada, perché il codice della strada viene spesso vilipeso e ignorato, e appunto su questo viene, a questo viene dedicato un altro dei contributi. Altre cose, altre come dire azioni positive, ovviamente il pagamento delle imposte o quantomeno pretendere lo scontrino laddove non, o la fattura laddove è possibile. Il pagamento delle imposte certo è un problema non solo italiano, ma in Italia ha sicuramente delle dimensioni di tutto rispetto. E poi sostenere naturalmente l'informazione libera e cercare in qualche modo di intervenire a moralizzare anche in settori che possono sembrare più lontani da questi problemi, come magari lo sport. In effetti ricorda un contributo di questi 24, il nostro calcio è stato funestato negli ultimi anni da diversi scandali, un altro settore dove abbiamo avuto una preoccupante mancanza di etica. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo sfogliando Il, che da ieri trovate in vendita con Il Sole 24 Ore. Tra le notizie che appaiono su questo numero c'è anche la segnalazione di una iniziativa della Finlandia. La Finlandia sta promuovendo una campagna per invitare le società di information technology, quelle che si occupano di computer in qualche modo, che lavorano con server, come si chiamano, molto importanti, molto robusti, a portare i loro strumenti lì in Finlandia. Perché? Perché la temperatura e il clima sono più favorevoli, e da questo però la Finlandia stessa conta di ricavare poi un vantaggio, perché il calore prodotto dai server verrebbe sfruttato poi appunto dai finlandesi per essere trasformato in riscaldamento. Il progetto è abbastanza avanzato, quello che riferisce Sara De Ganello da Helsinki. Si tratta di succhiare, di sfruttare il calore prodotto da questi computer e trasformarlo in riscaldamento, almeno per 500 famiglie. Questo è, diciamo, il progetto iniziale. Questa segnalazione su Il si abbina bene, si associa bene a una cosa che invece stava su Vita di questa settimana, la settimana del no profit. Vita ha dedicato un inserto all'energia. Tra l'altro, in questo inserto dedicato all'energia e alle energie verdi c'è una segnalazione di Natasha Gargano che si occupa della possibilità di risparmio energetico fornita dai condomini, e i numeri sono decisamente impressionanti, perché si spiega che si potrebbero avere bollette del 50% meno care, insomma dimezzate, e 430.000 nuovi posti di lavoro con un indotto economico di 36 miliardi l'anno. Queste sono le stime fatte dal WWF. Tutto questo si potrebbe ottenere appunto riqualificando le abitazioni con tecnologie che sono attualmente a disposizione e pochi accorgimenti, ad esempio sostituendo la caldaia a gasolio con una condensazione, introducendo sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini con impianti centralizzati, o applicando le valvole termostatiche ai radiatori, cioè quelle che reagiscono, accendono il calorifero solo quando si raggiunge una certa temperatura. Questi costi vengono stimati per interventi medi per ogni famiglia dai 3 ai 5 mila euro. Questo è un parere tecnico della campagna del WWF Generazione Clima. Questi poi 3-5 mila euro si potrebbero ammortizzare sfruttando gli sgravi fiscali nell'arco di 4-5 anni. Il dato più interessante forse di tutto questo lavoro proposto da Vita è che, secondo sempre il WWF, se 1 milione di condomini fossero messi in efficienza, intervenendo quindi tanto sugli impianti di riscaldamento quanto sul loro isolamento, si potrebbe raggiungere il 40% dell'obiettivo di riduzione che è previsto appunto per l'Italia dal protocollo di Kyoto. Quindi un risparmio importante, un risparmio per le famiglie fino al 50% delle spese di riscaldamento. Insomma, il tentativo di trovare delle fonti di energia alternativa, cominciando appunto a non dissipare, a non sprecare, non utilizzare malamente quelle che già oggi sono disponibili. Questo su Vita di questa settimana. Restiamo in qualche modo in famiglia, restiamo in casa, ma cambiamo nazione, cambiamo stato e cambiamo anche argomento. perché su Nouvel Observateur questa settimana è apparsa una inchiesta intitolata appunto alle questioni sociali, le questioni di costume che sono più tipiche dell'attualità, dedicata al riconoscimento o disconoscimento di paternità. Qual è in realtà la cosa che ha mosso il Nouvel Observateur a questo lavoro? Il fatto che c'è una diffusione molto, molto veloce dei test del DNA per accertare la paternità. Ora, senza fare dell'ironia, perché in realtà l'articolo è molto serio, si occupa appunto dei possibili effetti sociali di questi disconoscimenti di paternità. Noi sappiamo, perché ce l'hanno insegnato i latini, che la madre appunto è sempre assolutamente certa e il padre è sempre incerto. Questo si dice appunto da migliaia di anni. Quello che sta succedendo è con il test del DNA, appunto, riferiscono i colleghi francesi del Nouvel Observateur, Doan Bui, che è colui che firma poi questa inchiesta, è che il test del DNA sta modificando decisamente questo tipo di approccio. Quindi ci sono sempre più domande di accesso al test del DNA e di conseguenza poi ne derivano anche contestazioni di paternità, che nel 2008 in Francia sono arrivati a 3.300 casi. Questo poi comporta naturalmente tutta una serie di effetti anche per quanto riguarda appunto gli effetti legali sul mantenimento dei figli e naturalmente il proseguimento della coppia, della famiglia, che certo incontra più di un problema. Ma è interessante il fatto anche che Bui abbia pensato di corredare questo lavoro con una serie di domande a un'antropologa, una professoressa del Collège de France, che si chiama Françoise Ritier, e alla quale viene chiesto se i test del DNA, che questa diffusione dei test del DNA, stanno modificando il concetto di paternità. La risposta della Ritier è sì, naturalmente questo modifica questo approccio millenario per cui appunto la paternità rimaneva comunque indimostrabile contrariamente alla maternità, e lei dice in realtà la paternità è un atto sociale prima che un atto biologico, e infatti ai periodi appunto di Roma antica il padre riconosceva il figlio, lo presentava pubblicamente e gli dava il nome. Questo stava a indicare, a sottolineare proprio la funzione, l'aspetto sociale della paternità. Però la Ritier dice il problema è che c'è una preminenza, si va a una prevalenza pericolosa in qualche modo della biologia, del biologico, e dice mi sembra che tutto questo poi si traduca soprattutto in un danno per i bambini. È pericoloso che i test del DNA, ad esempio, vengano utilizzati come delle armi nei casi appunto di conflitti familiari all'interno delle cause di separazione, e anche perché poi chiaramente non è semplice comporre questo tipo di fratture che se vanno ad aggiungersi a quella poi della separazione, che portano poi alla separazione. E molto è stato fatto per nei secoli, nei millenni, spiega la Ritier, per controllare in qualche modo il corpo delle donne, matrimoni forzati, matrimoni imposti. In realtà questo non è in questo modo la fine di una supremazia delle donne dal punto di vista appunto della maternità, della paternità. Questo è un ulteriore modo in cui ci dobbiamo confrontare con la modernità, una modernità che ha degli aspetti sicuramente scientificamente migliori, ma socialmente anche pericolosi. E allora, con questa segnalazione del Nouvel Observateur, che appunto si occupa della diffusione dei test del DNA, si è occupato della diffusione del test del DNA e degli effetti sociali, dei possibili effetti sociali di questa voglia di certezze riguardo alla paternità, in Francia naturalmente, l'inchiesta riguarda la Francia. Noi abbiamo per oggi esaurito il nostro appuntamento, vi ricordo che domani alle sempre 8:30 saremo nuovamente in onda per una nuova puntata di Magazine Magazine 24. Io ringrazio Pietro Lacorte che ci ha assistito questa mattina in regia. Margherita Aina e Vittoria Mussini mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete potete riascoltare questo programma, come tutti i programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. Vi ricordo inoltre che se volete, in edicola trovate anche da ieri I Viaggi del Sole, il mensile dedicato appunto ai viaggi, edito sempre al Sole 24 Ore. In questa uscita il mensile è dedicato a New York e ai weekend sulla costa orientale americana. E con questo è davvero tutto, ci sentiamo se volete domani mattina sempre alla stessa ora con Magazine 24.